non posseduta da una grande troia. Quando mi possiede, mi trasformo in una scoria. Se mi metto a letto, mi trasformo in un momento da suora. Mi risveglio gran mignotta. La sfogacciol mi possiede, andare a trombarlo preferisco a pregar. E le pompe imparo a far, altro che a messa andar. Esorcista procia, non mi esorcizzar, ti convincerò a scopar. Le mie chiappe tu vorrai. Esorcista procia, non ti preoccupar, tu godrai e mi vorrai. Fatti possedere dalla sfogaccio, basta pregar. Vai, vieni qui, inizia con un ditalin. Non esitar, la sfogaccio le fai entrar. La sfogaccio mi possiede, andare a trombarlo preferisco a pregar. E le pompe imparo a far, imparo a altro far. Che a me andar. Esorcista procia, non mi esorcizzar, ti convincerò a scopar. Le mie chiappe tu vorrai. Procia, non ti preoccupar, tu godrai e mi vorrai. Fatti possedere dalla sfogaccio, basta pregar. Esorcista procia, non mi esorcizzar, convincerò a scopar. Le mie chiappe tu vorrai. Esorcista procia, non ti preoccupar, tu godrai e mi vorrai. Fatti possedere dalla sfogaccio, basta pregar.